chiuse in camera, guardo le foto appese. Ricordi di serate perse fra due amiche prese. Un paese che non offre, è un paese senza svolta, col bisogno di sentirsi viva ancora un'altra volta. Spingo al massimo e non mi capacito, tengo il passo lungo ma sto mondo è sempre più rapido. Ad ogni battito ci arrivo corto, batte forte in testa quel momento che non scordo. La prima volta sopra un palco, la porta come un falco, di colpo il mio corpo teso ad arco. La sensazione è stata unica, realizzai in quell'istante la mia salvezza e la musica. Ad ogni blocco mi ha spinto oltre dovunque, rimane amore e gratitudine sempre e comunque. A chi invece è un attore nato, non riservo odio, è un sentimento frecciato. L'obiettivo è quello, è sempre resta dare voce alla gente con la musica che in testa. Ogni giorno i grigi, andrei di totale festa, sicuro per l'Italia per me non sei mai l'osta. L'obiettivo è quello, è sempre resta dare voce alla gente con la musica che in testa. Ogni giorno i grigi, andrei di totale festa, sicuro per l'Italia per me non sei mai l'osta. Cresciuto in un paese dalle circostanze ambigue, dove se vesti largo sei drogato in siringhe. Braccati, controllati da sbirri e saltati ora ingabbiati, perché complici delle famiglie. Il prima L tra le mani, la voglia di fare, quando sei l'unico quasi puoi solo inventare. L'anno delle te di Mura a mia disposizione, vesti nei vecchi borbottavano il mio nome. Stanco, stretto della city, rap dei city, la crescente voglia di spaccare, conoscere miti. In video che a 14 c'aveva i tape, potessi lo farei su cassetta sto mixtape. La mia sete di conoscenza ma spinta a prendere posizione con una presa di coscienza. L'essenza di quel rap che dicono sia morto, io l'ho visto vivo dovunque sono stato, in ogni posto. L'obiettivo è quello, è sempre resta dare voce alla gente con la musica che in testa. Oggi mi dici, aggredito dalle festa, sicuro che l'Italia per me non sei mai resta. L'obiettivo è quello, è sempre resta dare voce alla gente con la musica che in testa. Oggi mi dici, aggredito dalle festa, sicuro che l'Italia per me non sei mai resta. Soppa coppa, microfoni freestyle, check one sopra il beat, l'hai capito dove vai. E sei fa chi il nuovo nome, il nuovo marchio. Questo è J che ci arrivo sopra il beat, tutto marcio. Squarcio la realtà con quello che ti do, che propongo. Spingo sto rap serio, fra fumando pongo. Ma posto sul beat ad ogni costo, e lascia verde fra che non lo lascio, fra quale si è scosso. Lo senti fra distorsione, il nuovo nome, la dispersione. Spingo rap fra nella nazione, opposta alla mia. Che vuoi che dica, vaffanculo alla giuria. Sta roba fra rimane mia, underground style leader. C'è che one sul beat, l'hai capito, fra devi capire. Spingo rap serio, dell'eterio come fa. Botta mana sei fa che la Buddha bless compa. Sei fa che la Buddha bless compa.